Sura del Soccorso, capitolo 110 del Sublime Corano. È stata rivelata a Mina nel pellegrinaggio dell'addio, ma considerata nel novero delle sure medinesi. Essa è l'ultima sura ed è stata rivelata dopo la sura 9, At-Tauba. Consta di 3 ayat. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo. Quando giungono il soccorso di Allah e la vittoria, e tu vedi gli uomini entrare in massa nella religione di Allah, proclama con la lode di Lui l'incondivisa divinità del tuo Signore e chiedigli perdono. In verità, Egli è colui che facilmente perdona.